Ma perché non te vai a dormire, vecchio, rompere le scarpe? Me come questo qua a voce bassa, hai sentito, Ravi? Come questo qui a voce bassa. Che credono che nessuno lo riconosce così. E siamo a quelli non conto per mettere la segreteria telefonica per lasciare messaggi. Oh yeah. Per carità, cosa vuoi che mi faccia tua madre perché sono froscio, eh? Eh? Coglione, che mi dà fastidio che la madre dice, ma mio figlio, che ho fatto, gli ho fatto scogliare il telefono, dimmi tutto, Anto. E chi gli ha dato quei vecchi in mano? Gabi, ho trovato chi è? Deve essere Danilo Sanna, quello che dice che non ha baracchina, coglione. Perché non telefono all'amico tuo auto? Intanto ci ho mandato a fanculo. Perché non fai 24, 25, 50? Vai. Almeno rompi il coglione a lui, vai, che froscio quanto è te. Fai il porco. Fai casino, fai, che c'è gli ascoltati all'ascolto. Fai casino, fai.